Il mio pensiero originale 280, sono antisistematico e comunico nel cielo. Sono gli angeli a gridare nella vostra oscurità. Se la mia terra è il paradiso, avete ucciso l'aldilà. Se il vostro pianto è il mio sorriso, ogni sorriso che verrà mi porta lacrime. Così non troverò felicità. Se in ogni sogno che voi fate vive materialità, la gente sogna ed è normale che non si risveglierà. Sono entrato nelle vostre menti senza libertà. Ho visto un mondo che circonda il mondo dell'oscurità. Se va così, dimmi fratello, quanta gente morirà per le strade, dentro i cuori, nelle menti di chi ancora non sa cos'è la vita. Pensi che qualsiasi soldo possa darti un'altra madre per rimetterti al mondo? Io nel mio spirito ci vivo e ci sprofondo e non comprendo come fate a regalare questo mondo a chi artefice del male vende morte con un ticket. Distrugge il nostro spirito, scrivilo, Free Tibet. Voi preoccupati degli dei stereotipati, ingrati, siete ancora schiavi dei dannati. La vostra mente viva nella realtà strati, ma la mia mente universale vi ha già cancellati. Questo ai soldati, antilluminati, distrugge le catene nelle quali siamo nati. I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crying in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it! My life has value! Giustificate la battaglia al terrore. Siamo antagonisti perché noi abbiamo un cuore. Qui non c'è onore, non c'è neanche guerra santa. Un accordo fra capi di stato, dai dimmene un'altra. Non me la bevo e preferisco il musulmano che lotta per la libertà di leggere il Corano. Cosa ne pensi dei bambini che ora soli percorrono il deserto in mezzo a mille bombe e tuoni? Se poi vi sparano nel nome di un dio, capisco il sentimento e quindi poi vi sparo anch'io. Non puoi votare per la legge di sterminio e poi cercare aiuto quando perdi il tuo dominio. La nostra vita sarà pure ormai già vostra, ma il risveglio sta cadendo e qui la gente lo dimostra. Io non ti chiedo perché non voglio risposta, brucio la bandiera nera assieme a quella rossa e... Write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it! My life has value! E quante pecore smarrite nel recinto. Il pastore vi ha nel cuore ma la vita ormai l'ha vinto. Se non si ascolta neanche più il proprio istinto, ogni lume di speranza è già bello che è estinto. Il nostro cielo non ritornerà mai blu. Tu non sai neanche il motivo, io non vivo di TV. Respiriamo aria di morte, moriremo e poi nell'aria spariremo, spalancandogli le porte del pianeta Gaia. Credi nella sorte, ogni coincidenza ultimamente qui si fa sempre più forte. Una vita nella morte, una morte può dar vita a un'altra vita che di vite possa farne ancora molte, lasciando le impronte per ricordare i tempi in cui la verità esisteva, in cui credevo fino a quando l'ho mandata a monte. Questo è il presente, dimentica lo spazio e tempo perché sei nel grembo della madre rinascente. He said, please leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel belt and radio and I won't say anything, just leave us alone. Well, I'm not gonna leave you alone. I want you to get mad. I don't want you to protest, I don't want you to ride, I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it! My life has value!